se pensiamo che la riforma su alcune forme contrattuali, ad esempio possiamo citare il lavoro a chiamata, il lavoro intermittente, è andata ad introdurre delle regole che rendono più stringente l'utilizzo, si pensi appunto per questa tipologia di contratti alla comunicazione preventiva che il datore di lavoro è tenuto a fare per segnalare in quali giorni o in quali cicli lavorativi sarà impiegato successivamente il lavoratore. Bene, queste formule magari hanno causato uno spostamento da appunto lavoro subordinato all'utilizzo dei voucher, anche perché il campo di applicazione con le regole della riforma del lavoro si è allargato. Si è allargato e poi soprattutto non c'è più il confine che prima era abbastanza sottile sull'occasionalità della prestazione, perché ormai il limite è tracciato dalle soglie reddituali, dalle soglie di compensi che sono state indicate prima. Ecco, comunque dati ufficiali che dimostrino questo travaso non ce ne sono. Di fatto, se qualche azienda ha deciso di passare ad un contratto ad un altro, l'importante è che comunque tutti i contratti vengano stipulati in maniera totalmente trasparente per il lavoratore.